Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, parleremo, come hanno già fatto anche i GR24, del dato oggi, senza giri di parole, brutto sull'occupazione e disoccupazione, nel senso che la disoccupazione è stabile a maggio per quello che riguarda l'Unione Europea, 19,3%, ma in Italia è in leggero aumento all'11,3% rispetto ad aprile, che quando fu dell'11,2%, e comunque la disoccupazione italiana è la terza più elevata dopo Grecia e Spagna. Ma quello che preoccupa ancora di più è che la disoccupazione giovanile, mentre nell'area euro è rimasta stabile, sempre alta al 19%, in Italia è salita dal 35,2% al 37%, e anche qui siamo i terzi come disoccupazione giovanile dopo Grecia, che è al 46,6%, e Spagna al 38,6%. Sul fronte opposto, Germania e Olanda rispettivamente al 6,7% di disoccupati giovanili e al 9%. Tra l'altro sono calati gli occupati di 51.000 unità dopo 8 mesi, invece che c'era una leggera crescita negli occupati, e in crescita sono gli over 50 a tempo determinato, più 141.000 comunque rispetto a maggio 2016, un dato, ripeto, oltre che negativo anche a sorpresa, perché ad aprile avevamo commentato un dato di un forte incremento degli occupati, più 94.000, e che porta il dato di oggi, la situazione indietro al mese di marzo sostanzialmente. E anche di questo parleremo nel corso del programma. Nella seconda ora il ministro Poletti dice i dati non cambiano le tendenze di medio e lungo termine. Sì, forse il ministro dovrebbe anche riconoscere che il dato però non è bello, e non solo che non cambia la tendenza di medio e lungo termine, ma va bene, si fa per dire. Andiamo avanti. Le altre notizie di oggi riguarderanno invece il confronto ancora in Europa in attesa del vertice di Tallinn sul fronte migranti, che è un tema anche di carattere economico per le risorse oltre che per la gestione dei flussi migratori. E di nuovo oggi Macron ha detto: beh, non confondiamo, per affrontare la crisi migratoria bisogna condurre in maniera coordinata, va bene, un'azione efficace dell'Europa, non confondiamo tra rifugiati politici e migranti economici, senza abbandonare l'indispensabile mantenimento delle nostre frontiere. Si segnala l'accordo appunto di Francia, Germania e Italia sulla relocation, sul ricollocamento, insomma, a me sembra che ancora siamo solo sul fronte delle parole. E tra l'altro nel vertice di Tallinn proprio l'ipotesi italiana di sostanzialmente fare sbarcare i migranti soccorsi in porti in altri paesi, diciamo in altri porti dell'Unione Europea, sarà il nodo più difficile, ma si riscontrano difficoltà anche sulle risorse del fondo fiduciario d'emergenza, quello che dovrebbe andare sulle cause profonde della migrazione. Insomma, gli stati membri hanno versato solo 89 milioni di euro, quindi praticamente nulla su quello che ho visto il tema e la portata del tema. Parleremo anche del mondo del commercio, perché fermo il punto sull'andamento del commercio italiano e su una cosa che ci ha incuriosito, nel senso che la FIPE, che rappresenta i pubblici esercizi commerciali di questo paese, denuncia un tema che può sembrare così marginale, folcloristico, ma non lo è, ossia su oltre 42.000, io non pensavo potessero essere così tante, le sagre organizzate in questo paese, 27.300 sono false e portano un giro da, portano via, sottraggono al mondo del commercio un giro d'affari, solo quest'ultime, di mezzo miliardo di euro, 590 milioni di euro. Poi parleremo come sempre anche della borsa. Perché lo dico? Perché oggi Piazza Affari è più che positiva, siamo al 2% quasi di rialzo, con Parigi che guadagna l'1,40, Francoforte l'1,20, Londra l'1%, Dow Jones più 0,90%. Grazie però sia ai bancari, ma non solo questa volta, perché c'è Fiat Chrysler che sta crescendo moltissimo, il 6,20%, in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto. Poi Bipper Banca più 6%, dopo aver finalizzato l'operazione con Cari Ferrara. Unipol più 5,40%, Cimbri ha annunciato la creazione di una bad bank, l'ho fatto nel fine settimana, e poi Buzzi Unicem più 3,80, Ubibanca più 3,60, Unicredit più 3,30, Finecobank più 3,12, Saipem più 3%, come Case New Holland. Il fronte opposto c'è pochissimo oggi, Recordati perde il 2,1, A2A lo 0,50 come Brembo. L'ultima cifra 349-238-6666, sia per gli sms che per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e ricordo che il programma è trasmesso anche in video sul sito di Radio 24 e su Facebook. Fronte internazionale, come sempre, in apertura, qualcuno mi chiede del petrolio, ma il petrolio è sempre poco mosso, ha guadagnato oggi un punto percentuale, ma $46 al barile. No, è interessante che in Gran Bretagna per la prima volta da oltre 50 anni sciopereranno i dipendenti della Bank of England, della banca centrale britannica. La protesta riguarda il fatto che per il secondo anno consecutivo è stato offerto un aumento dei salari che è inferiore al tasso di inflazione. L'inflazione sta risollevando la testa in Gran Bretagna per via dell'indebolimento della sterlina, del pound. Dei dati della disoccupazione parleremo dopo, ho già raccontato in sintesi quelli italiani, ripeto, quella in Europa 19 è stabile al 9,3%, diversamente va in Italia sia sul fronte occupazione, disoccupazione e soprattutto disoccupazione giovanile. Cresce intanto però, secondo l'osservatorio della CNA, Confederazione Nazionale Artigiani, l'occupazione delle piccole imprese del 3,8% rispetto al 2016. E poi segnalo una ricerca di HR Trends and Salary Report realizzata dal gruppo Randstad, che è un operatore mondiale nei servizi per le risorse umane. Perché lo dico? Perché la ricerca rivela che 8 aziende su 10 in Italia sarebbero pronte ad assumere nel 2017, ma la maggior parte trova candidati non idonei per carenze di competenze professionali specifiche, il 60%, poca esperienza lavorativa nel settore, il 47%, e scarsa conoscenza delle lingue straniere, il 35%. L'80% ha intenzione di assumere nuovi dipendenti, era il 60% nel 2016, soprattutto per far fronte a una carenza interna di competenze, il 37%, o per la crescita che sta realizzando l'azienda, il 25% dei casi, o per la crescita del mercato, il 22%. Nel frattempo, visti i temi sui dati non belli su disoccupazione e occupazione, è chiaro che fa impressione che per 30 posti da vice assistente in Banca d'Italia, la Banca d'Italia è uno degli organismi più prestigiosi in questo paese, ci sono state 85.000 richieste di ammissione, tant'è che Via Nazionale ha deciso di procedere alla preselezione per titoli, così verranno ammessi alla prova scritta solo 8.140 candidati. C'era tempo fino al 29 maggio. Comunque 84.745 domande per 30 posti. Questo per quello che riguarda le notizie in breve. Oggi la giornata non è di quelle devastanti, però insomma temi ci sono. Allora partiamo con il primo. e mi riferisco al tema migranti, che è un tema anche economico, ma è un tema in cui si gioca, come ha ricordato anche Macron oggi, la tenuta stessa dell'Europa. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiamo dalle notizie. Al vertice di ieri di Parigi è stata espressa una forte solidarietà all'Italia, che fa fronte a un numero crescente di arrivi. Così un comunicato congiunto con i contenuti dell'accordo di ieri tra i ministri dell'interno di Francia, Germania e Italia, e quindi Marco Minniti, Gérard Colombe, Thomas de Maizière e il commissario europeo per la migrazione e gli affari interni Dimitri Avramopoulos. Su questo è intervenuto di nuovo il premier Gentiloni, è intervenuto anche il presidente Emmanuel Macron durante il discorso pronunciato davanti al congresso. Ha detto: per affrontare le crisi migratorie bisogna condurre in maniera coordinata in Europa un'azione efficace e umana che ci permette di accogliere i rifugiati politici che corrono un rischio reale, perché questo fa parte dei nostri valori, senza confonderli con i migranti economici e senza abbandonare l'indispensabile mantenimento delle nostre frontiere. Il problema, come dicevamo anche la settimana scorsa, che questo ragionamento va benissimo, ma noi sulle coste nostre abbiamo sbarchi prevalentemente di migranti economici, perché i flussi siriani intanto si sono interrotti e ridotti, soprattutto dopo i 3 miliardi dati alla Turchia e insomma il ruolo che svolge la Turchia. Ma sui flussi, diciamo, di rifugiati politici, tu puoi aspettarti che un domani terminati i conflitti e le guerre torneranno nel loro paese, non certo o non così tanto sui migranti di carattere economico. Quindi continuare a dire, lo dico con massimo rispetto per Macron, sì, ma non confondiamo tra rifugiati e migranti economici, significa non rispondere al grosso del problema relativo agli sbarchi in Italia. Chiede effetti concreti invece il premier Gentiloni dopo il documento condiviso di ieri tra appunto Francia, Italia e Germania. L'iniziativa italiana in questo senso ha prodotto dei primi risultati e mi auguro che questi risultati generino effetti concreti. Ma l'accoglienza umanitaria non basta. Al dovere morale di salvare vite umane e di accogliere coloro che gridano aiuto, è indispensabile infatti accompagnare uno sforzo collettivo per offrire una nuova prospettiva a quanti, soprattutto in Africa, sono costretti a lottare quotidianamente per la sopravvivenza. La possibilità di non dover più fuggire in paesi lontani per garantire un futuro ai propri figli. È per questa ragione che valutiamo con molto favore, anche come membri non permanenti del Consiglio di sicurezza, il crescente interesse delle Nazioni Unite e della FAO in particolare a promuovere un'azione che integri più strettamente la dimensione della pace e della sicurezza con quella dello sviluppo sostenibile in linea con la visione dell'Agenda 2030. Il punto è capire che cosa potrà ottenere l'Italia dal vertice di Tallinn, di giovedì prossimo a Tallinn, perché l'ipotesi di aprire, diciamo, ad altri porti oltre a quelli italiani sarà il nodo forse più difficile da sciogliere. Ma se ho ben capito, si registrano anche difficoltà sulla questione delle risorse per il fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione Europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione, al quale, come dicevamo prima, per il momento gli Stati membri hanno versato solo 89 milioni di euro. È il momento di chiamare in causa la mitica Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore, in collegamento da Bruxelles. Buonasera, Adriana. Buonasera. Dunque, Adriana, adesso senza voler essere troppo polemici, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, Macron insomma è molto abile nel dire siamo tutti solidari con l'Italia, però non bisogna confondere con i migranti economici, che poi però significa il grosso di quello che sbarca sulle nostre coste. Che speranze tu vedi che si possa arrivare a una soluzione che non lasci di fatto, al di là delle grandi pacche sulle spalle, l'Italia da sola? poche, molto poche, molto poche, per il semplice motivo che Macron è riprovevole in quello che dice, ma dalla sua la politica comunitaria dell'immigrazione, nel senso che oggi c'è la famosa convenzione sul diritto d'asilo che riguarda i rifugiati politici e non quelli economici, e già su quel tema si vede che le richieste dell'Italia per evitare che sia sempre il paese di primo sbarco a dover trattare la domanda di asilo del migrante, già su questo punto l'Italia non riesce ad ottenere una riforma. Si spera che in questo nuovo semestre ci si arrivi, ma anche se ci si arrivasse già sarebbe un passo in avanti, sarebbe comunque sempre e soltanto questione di rifugiati politici. Per quel che riguarda i migranti economici, diciamo l'Europa può aiutare nel senso di dare appunto fondi, risorse aggiuntive, tentare fra le famose politiche verso i paesi africani di massima immigrazione per cercare di trattenere i migranti e di dare loro delle prospettive, ma la politica, diciamo, di immigrazione economica non è a oggi una competenza europea. In più, come sappiamo bene, i migranti, i grandi flussi migratori che sono arrivati nel 2015 eccetera e che si sono riversati quasi tutti sulla Germania, quel flusso lì è stato bloccato per l'accordo con la Turchia, perché in questo momento le guerre sembra in qualche modo che vadano a come dire, ad attenuarsi, e in ogni caso, diciamo, le frontiere verso l'Italia sono più o meno tutte blindate, e quindi, non essendoci una competenza europea sull'immigrazione economica in senso stretto, avendo questo blocco alle frontiere, la voglia di solidarietà europea molto piccola, al di là delle parole Italia eroica, dobbiamo aiutare l'Italia, cioè io non vedo come noi possiamo, diciamo, arrivare a una soluzione di questo problema se non, diciamo, puntando su maggiori aiuti europei che ci saranno, su magari un rafforzamento dei pattugliamenti nel Mar Mediterraneo centrale, ma dopodiché il problema è nostro, è quasi essenzialmente nostro. Ora, naturalmente le risorse europee ci fanno comodo, ma gestire tutti questi migranti, integrarli nella società, trovar loro un lavoro in un momento in cui il paese, diciamo, non brilla dal punto di vista della congiuntura economica. E questi sono tutti problemi serissimi. Tant'è vero che questo tipo di problema al vertice di Parigi è stato trattato come? Dicendo: cari italiani, fatevi un bel codice per far ben capire alle ONG che cosa possono e non possono fare, quindi non andare a recuperare migranti in acque libiche, per esempio. Questo è uno dei punti. L'altro punto è quello di non avere comunicazioni costanti con i barconi che passano. Cioè, quindi sono tutte questioni in cui si dice: Italia, devi fare un buon codice di condotta. Dopodiché l'Europa ti dice: aiuterò di più, con più fondi, le guardie costiere libiche, perché, diciamo, non facciano uscire dalle acque territoriali questi barconi e li riportino quindi indietro, e quindi li rispediscano da dove sono arrivati. Ma sono tutte misure tampone, certo, che non risolvono il problema. Però, scusami, del primo barco e secondo, sì, dell'immigrazione economica. Adriana, due osservazioni. La prima: quando però il problema dei flussi migratori due anni fa riguardò tutta la rotta balcanica, cioè dalla, certo, Turchia, certo, Medio Siria, Turchia, Grecia, e poi ricordiamo Serbia, Ungheria, la Croazia, Serbia, Croazia, Ungheria, le barriere, lì l'Europa tirò fuori 3 miliardi, dicisi 3 miliardi per la Turchia, certo, per fare da camera, certo, di compensazione, contenimento di questi flussi. Certo. Qui mi sembra che le cifre siano anni luce distanti. Allora, se il problema dei sono flussi risibili, certo, e scusa se ti interrompo, secondo, la Turchia, pur con tutti i difetti dell'involuzione autocratica di Erdogan, è un paese fatto e finito che sta perfettamente in piedi. Noi dobbiamo poggiarci sulla su Libia. Una Libia che notoriamente è un paese che al momento non sta in piedi, è un paese in guerra, è un paese paradossalmente destabilizzato dalla Francia e dalla Gran Bretagna. E quella era la seconda... Per cui è una situazione pessima quella nella quale noi ci troviamo, però... Diciamo che la legislazione europea attuale non c'è un granché, perché quel che c'è riguarda i rifugiati, non riguarda gli immigrati. No, ma io adesso non voglio insegnare il lavoro a nessuno, però dico, se fossi l'Italia a Bruxelles, farei notare due cose. Che quando il problema l'ha avuto la Germania, i paesi dell'est si sono tirati fuori 3 miliardi, che è un'altra storia rispetto alle decine di milioni di euro che vediamo adesso. B. Che Macron... che non sarà un allievo del neogollista Sarkozy, ma non è neanche così distante da lui, non può far finta di non ricordarsi che erano i Mirage francesi a bombardare la Libia, oltre a quelli statunitensi. Cioè, una responsabilità non politica forte ce l'ha sulla situazione libica. Quindi, perché secondo te l'Italia non alza la voce su questi due temi? Cioè, cara Germania, cari paesi dell'est, Austria, quando avete avuto bisogno di bloccare i flussi con la Turchia avete messo 3 miliardi, e cara Francia, non ti puoi tirare fuori perché è stato il tuo presidente Sarkozy a immaginare di poter tra virgolette conquistare economicamente la Libia, andato via Gheddafi. Sono sicura che l'Italia faccia presente entrambi i problemi, entrambe le questioni. Il problema è che il cinismo europeo è quello ben noto, nel senso che al massimo ti dicono ti diamo un po' più soldi. Dopodiché appunto questi non sono rifugiati, quelli là erano rifugiati, quelli che non erano rifugiati sono stati rimpatriati. Non ci dimentichiamo che Merkel, dopo aver fatto l'accordo con la Turchia, ha cominciato dei rimpatri massicci per tutti quelli che non avevano diritto, e per gli europei, quelli che sbarcano in Italia non hanno diritto di sbarcare in Europa. Questo è il punto. E questo è l'equivoco di fondo, per cui è verissimo. Cioè, io sono sicura che noi tutti i giorni diremo è colpa vostra se la Libia, ma poi paradossalmente non ci dimentichiamo che il governo allora non voleva l'intervento in Libia, ma la Presidenza della Repubblica l'ha voluto e con estrema convinzione l'intervento in Libia. Quindi è una situazione molto balorda quella nella quale ci troviamo. Non è facile, dal punto di vista umanitario, certo che ti dicono ti diamo più soldi, ma non vanno molto oltre e non andranno secondo me molto oltre. Sarà già tanto se riusciremo ad avere una buona riforma dell'accordo di Berlino, di Dublino. Di Dublino. Perché già lì fa troppo comodo avere il paese di primo sbarco, no? Certo. Che ti assume tutti gli oneri, eccetera. Cioè, l'Europa è cinica, e anche bara. No, ecco, è cinica e anche un po' qualcos'altro. Però voglio andare avanti, perché è appena uscita un'agenzia. Allora, già nel 2017, ad oggi, abbiamo avuto un 20% in più di sbarchi rispetto al 2016. I dati li ha diffusi adesso il Viminale. Siamo a 85.183 sbarchi nel 2017, 20% in più rispetto al 2016. Tra l'altro, in testa la nazionalità di chi è arrivato sono sempre i nigeriani, e quindi lì il problema non è di carattere politico, ma è economico. 13.500, seguono i bengalesi, 8.000, i guineiani, 7.500, e Costa d'Avorio, gli ivoriani, 7.100. La Lombardia è la regione che ospita il maggior numero di profughi, 13%, seguono Lazio e Campania, 9%, poi Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, 8%. I richiedenti asilo trasferiti in altri paesi europei secondo il principio della relocation sono appena 7.396, e come avvisano tutte le autorità, con l'inizio della stagione estiva il problema potrà solo peggiorare. Scusami, forse sono un po' naif in questa domanda, ma Adriana, ma non si rendono conto, visto che hanno scampato tra virgolette, chiamano così, il pericolo in Francia, che sul tema dei flussi migratori ti giochi anche la stabilità politica di un paese e oltre che la stabilità sociale di un paese? Assolutamente sì, però non ci dimentichiamo che l'Europa in generale interviene solo quando siamo sull'orlo dell'abisso e quindi per ora tampona, ti dice sì, ti do più soldi. Poi vorrei aggiungere un'altra cosa, è uscito proprio in queste ore il rapporto OCSE sull'immigrazione 2017 e l'OCSE è un osservatore diciamo esterno. Allora facevano notare che rispetto all'anno scorso l'aumento è stato del 20%, come appunto tu dicevi il Viminale, ma la crisi del 2015, quella famosa che ha portato appunto al patto con Erdogan eccetera, aveva visto moltiplicare di 12 volte i flussi migratori. Sì, ma erano, che da certo. Un punto di vista, no, ma io lo dico, cioè, perché come sempre è chiaro che tu prendi il 20% in più è un'enormità, sì. Ma quando tu prendi 12 volte i flussi dell'anno precedente in più è una cifra pazzesca. Questo per dire, io lo dico per far capire che nella testa degli europei che negoziano non c'è solo cinismo, ma c'è anche di dire sì, ok, d'accordo, voi avete un 20% in più, ma noi ai suoi tempi, parlo dei tedeschi, ne abbiamo avuto un aumento che era ben... Sì, bisogna vedere, volte, sì, bisogna vedere tu, dove partivi, capito? Però, perché ovvio, 12 volte... Loro hanno più immigrati di noi da sempre. Quindi quello come i francesi del resto, quindi noi in quel senso siamo sempre, ma questo non è una buona ragione, non lo dico per dire che hanno ragione, lo dico semplicemente per dire quanto è complicato affermare le ragioni dell'Italia. Perché l'Italia è il grosso paese, oltre alla Germania, a settembre, ma è l'altro grosso paese che va a elezioni a questo punto nel 2018, però per cui forse il ragionamento anche sulla tenuta dell'Italia, tenuta sociale, quindi tenuta politica, sarebbe un ragionamento di lungimiranza. Poi tu mi dici tanto loro sono cinici e intervengono solo quando la situazione è gravissima e fin qua. Quindi mi sembra di capire che nutri pochissime speranze sul vertice di Tallinn, al di là delle pacche sulle spalle qualche annuncio, ma nella sostanza, cioè ci vorrebbe ben altro, cioè ci vorrebbe una politica europea di gestione delle masse di migranti economici che arriveranno, perché arriveranno, ma la nostra disgrazia è di essere la portaerei del Mediterraneo centrale, abbiamo Malta che si rifiuta di prendere manco un migrante, abbiamo gli altri che sono più lontani, parlo dei rivieraschi del Mediterraneo, Spagna, Francia eccetera, sono più lontani di noi. Sarebbe Malta quella che potrebbe prendere qualcosa, anche se è una piccola isola, ma anche come gesto simbolico. L'anno scorso Malta non ha preso neanche un migrante. Ma ne ha scaricati venerdì una nave maltese, certo. 300-400 certo. Migranti. Per cui... Certo. Per cui, voglio dire, dal punto di vista del diritto del mare, dovrebbe essere Malta la prima, no? Invece vengono da noi. E anche lì, è anche questa storia delle ONG, sì, io sono d'accordo. Io capisco tutti i discorsi umanitari, eccetera, però insomma, no, non siamo San Francesco. Ma lì il problema delle ONG, adesso bisogna anche stare attenti a non santificare. Allora, va bene, l'attività è un'attività incommiabile, lo ripeto, sono nel consiglio di amministrazione di un'ONG, figuratevi se ce l'ho con l'ONG, però... Anche lì, un conto è soccorrere il barcone in mare aperto, un conto è aspettarlo al limite delle acque territoriali libiche, è inutile girarci attorno, comunicare con i libici quando parte un barcone. Non è questo, quello vuol dire semplicemente vieni che ti prendo. Altra cosa è l'attività di soccorso che abbiamo sempre fatto. Per cui sono d'accordo con te che un protocollo, un'inchiesta seria sull'ONG, di cui ci sono decine di sigle, andrebbe fatta. Grazie, anche se hai diciamo sgonfiato le eventuali aspettative sul vertice di Tallinn, grazie all'editorialista sulle 24 ore Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. Andiamo adesso sul metro, pubblicità, poi borsa, molti mi scrivono per le sagre, parleremo anche delle sagre e invece poi i dati di oggi non belli, assolutamente non belli, su occupazione, disoccupazione e soprattutto disoccupazione giovanile. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Andiamo adesso sulla borsa e poi gli altri temi. Borsa che ha visto una giornata più che positiva per Milano, devo dire la migliore oggi tra le borse a maggiore capitalizzazione, più 2%. Parigi più 1,5%, Francoforte più 1,20%, Londra più 0,90%, Dow Jones pure. Soprattutto per merito, oltre che di alcune banche, di Fiat Chrysler. Allora ne parliamo con Flavia Carletti. Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Fiat più 6,50%, poi molto bene anche Biper Banca, sì, più 6,46%, e Unipol dopo le parole di Cimbri il 5,31% di rialzo. Prego Flavia. Sì, appunto, FCE è stata la migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione in attesa dei dati sulle immatricolazioni auto italiane che verranno pubblicate alle 18, quindi ormai a mercati chiusi, e nel frattempo sono usciti i dati di altri paesi europei e degli Stati Uniti in particolare, e nonostante nel mese di giugno il gruppo FCA abbia segnato un meno 7%, il mercato comunque ha apprezzato il dato, perché si aspettavano, molti analisti si aspettavano un dato anche peggiore, alcune previsioni davano anche un meno 10%, quindi comunque nonostante il calo che era ampiamente atteso, questo calo è stato inferiore a quelle che erano le previsioni e quindi alla fine il mercato in qualche modo festeggiato. Sì, è in qualche modo anche molto visibile. Poi invece Biper, l'operazione finale con Cari Ferrara, e Unipol invece l'annuncio di Cimbe della Bad Bank. Bene anche UbiBank più 4, Buzzinice più 4, Unicredit più 3,80%, FinecoBank più 3,70%, Saipem più 3%, come Tenaris ed Exor e Case New Holland. Tra l'altro vanno bene anche tutti i bancari dopo l'approvazione del piano Monte dei Paschi, il via libera del Consiglio di Amministrazione al piano. Ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Allora, mentre eravamo in pausa del traffico, è arrivata la notizia: il Consiglio di Amministrazione della Cassa dei Risparmi di Genova ha deliberato un aumento di capitale da 500 milioni e la valorizzazione di attività per 200 milioni, inclusa la cessione di immobili. Lo batte l'ANSA come notizia appresa da fonti finanziarie, quello a cui facevamo riferimento prima, Flavia. Mentre per quello che riguarda gli altri titoli, le banche, al di là della Cassa di Risparmio di Genova, di Biper e di Unipol, sono tutte ben intonate sul Monte dei Paschi. Sì, esattamente, appunto oggi tutto il comparto è stato acquistato, ma tra l'altro non solo in Italia, è stato un movimento un po' generale in tutta Europa e si parla un po' anche di una rotazione di portafoglio, e in Italia in particolare che il settore ha beneficiato proprio della notizia di venerdì che il CDA di MPS ha approvato il nuovo business plan, che prevede tra l'altro l'ingresso dello Stato nel capitale con 6,1 miliardi di euro, che dovrebbe equivalere al 70% del capitale post aumento, e poi anche una conversione di 2,2 miliardi subordinati, e quindi sarebbe un'operazione di ricapitalizzazione complessiva di 8,3 miliardi. In più si parla della cessione di una newco, la cessione a una newco di 26 miliardi di non performing loans, e questo piano dovrà passare poi al vaglio dell'Europa, ma tutti si aspettano che sarà in qualche modo scontato e arriverà anche molto presto, visto che è stato comunque già ampiamente discusso negli ultimi mesi, e si parla anche di una possibile ritorno alla quotazione di MPS entro settembre, e questa soluzione positiva, viene giudicata positiva, in più quello che è successo anche per le banche venete, in qualche modo ripone tutto il settore bancario italiano in una situazione di maggiore sicurezza, e in qualche modo viene indicato da alcuni analisti che si è ridotto il rischio sistemico, e quindi oggi una giornata positiva sono stati loro particolarmente a beneficiare. Eh sì, allora andiamo sui pochi negativi invece, Flavia. Recordati, meno 2%, poi c'è Mediaset meno 0,5%, 60%. Ricordati. Sì, ricordati oggi, nonostante appunto abbia dato al mercato una notizia che dovrebbe essere positiva, perché ha ufficializzato il fatto che ha chiuso un accordo con AstraZeneca per i diritti europei di un medicinale che si chiama Metoprololol, che è un farmaco utilizzato nelle malattie cardiovascolari, e diciamo che il valore della transazione è di 290 milioni di dollari, circa 258 milioni di euro, e il valore delle vendite in Europa di questi prodotti è di circa 100 milioni di euro l'anno. Quindi però secondo gli analisti, in qualche modo, un po' la notizia era stata già data a maggio, quindi questa è stata una finalizzazione, e in più diciamo l'andamento odierno sembra avere a che fare più con una rotazione di portafogli, e quindi diciamo che c'è stata oggi una maggiore attenzione verso l'industria e i petroliferi piuttosto che sui farmaceutici. Infatti, per esempio, anche Bayer e Merck sono stati un po' deboli alla borsa di Francoforte. E questo per quello che riguarda Recordati. Segnalo nel frattempo che sul fronte del, qualcuno mi chiede l'euro su dollaro oggi è sempre fortino rispetto agli ultimi mesi, ma è 1,13 e 63. Dicevo, migliori e peggiori della giornata, più 8,5%, scusatemi, a 2,54 Neurosoft, Cementir Holding più 7,85%, Prima Industria più 6,80%, e appunto poi Fiat Chrysler più 6,50%. Il fronte opposto, CHL meno 10,40%, Invest meno 7,70%, Ross meno 3,40%, Lucisano Media Group meno 3%. Gli altri titoli bancari, a chi me lo chiede, sono andati tutti abbastanza bene. Più al palo oggi invece Moncler e soprattutto Poste Italiane e a 2A. Ringrazio intanto Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore. Noi apriamo l'altro tema, il penultimo tema della puntata, perché poi chiuderemo con i dati, ripeto per la terza volta, non belli, brutti, su occupati e disoccupati. Mi riferisco al mondo del commercio per due motivi: perché da un lato al via oggi, anzi da domani per la precisione, poi c'è chi fa i presaldi, tutti i saldi, i saldi estivi in Italia, con una Confcommercio che stima un budget di spesa identico all'anno scorso, sostanzialmente 220 euro a famiglia, 230 li stima Confesercenti, insomma siamo lì. E tra l'altro c'è molta incertezza in tema di ragioni economiche su questi saldi, perché solo un italiano su due ha già stabilito un budget, e il 2/3 dei commercianti dicono che andranno come l'anno scorso, senza crescere, senza invece e nemmeno diminuire. Aumenta invece il numero degli sconti, dei negozi che faranno sconto, 1 su 4, partirà dal 50%. Di questo parliamo, ma anche di un altro allarme, diciamo così, lanciato dal mondo degli esercizi commerciali, che può sembrare così una battuta, uno scherzo, ma sta, quando arriva la stagione estiva in questo paese, arriva anche la stagione delle sagre. Insomma, la FIPE ha detto sostanzialmente: attenzione, su oltre 42.000 sagre in questo paese ce ne sono 27.300 fasulle, con un giro d'affari di oltre 500 milioni di euro, e rubano lavoro ai commercianti che regolarmente pagano le tasse, che regolarmente hanno le licenze. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, presidente della FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, sono oltre 300.000 aziende, 1 milione di addetti più o meno. Lino Stoppani, buonasera. Buonasera, grazie per l'ospitalità. Presidente Stoppani, insomma, nel giorno in cui, alla vigilia dei saldi, perché partono ufficialmente domani, io mi aspettavo insomma che voi vi occupaste dei saldi piuttosto che dell'andamento della domanda interna, dei consumi che sono ancora molto... Abbiamo visto un dato sull'inflazione la settimana scorsa che segnala che tutto c'è in questo paese, tranne una tensione sui prezzi, cioè tranne dei consumi ripartiti in maniera robusta, e invece ve la prendete con le sagre. Che intanto mi dia un commento su saldi e consumi interni, poi dopo magari dopo il GR24 parliamo anche delle sagre. Qual è la situazione in questo momento al giro di boa dell'anno? Vabbè, la voce per quanto riguarda i saldi spetta principalmente a Peter Modi, insomma, che ha un suo riferimento istituzionale. Che è no, ma io parlo dei consumi interni. Beh, i consumi ovviamente scontano quelli che sono i momenti di difficoltà, certamente ci sono dei segnali di ripresa che alimentano quello che è il grado di fiducia che sta dietro anche al sentiment che porta agli acquisti, per cui se due terzi commercianti, come ha detto lei, hanno un atteggiamento prudente, insomma i dati e le aspettative sono comunque confortanti, i saldi servono certamente per dare liquidità e sostegno delle aziende, soprattutto quelle della moda, che scontano le difficoltà della crisi e che da tempo vivono momenti di sofferenza, come per tutti i commerci, insomma. I dati sulla ripresa sono confortanti per i pubblici esercizi, ma sono confortanti anche per tutto il settore del commercio generale. Allora, magari ripristiniamo una qualità di collegamento migliore dopo il GR24. Lei ci spiega cosa vuol dire che su 42.000 sagre, 27.000, quindi più della metà, sono fasulle e vi portano via mezzo miliardo di giro d'affari ogni estate. 349-238-6666 per sms e whatsapp dopo il GR24. Focus Economia. Minuti. Allora, ognuno di noi ha il ricordo che vuole delle sagre, si associa molto spesso all'estate, le sagre paesane, ne abbiamo parlato in altre occasioni perché riteniamo che delle volte la sponsorizzazione con denaro pubblico sia eccessiva in alcune regioni, ma qui non ne parliamo per lo spreco di denaro pubblico su sagre improbabili, magari non si trovano i soldi per altre cose ben più utili. Qui ne parliamo perché contro le sagre si è mossa appunto la stessa FIPE, che rappresenta, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, 300.000 aziende con 1 milione di addetti. E il presidente Lino Stoppani è di nuovo in collegamento con noi. Di nuovo buonasera, presidente. Grazie. Allora, 42.000 sagre, già la cifra mi sembra immensa, di cui voi dite 27.000 di queste... Esatto. Sono fasulle, con un giro d'affari di 560 milioni di euro. Prima domanda, come si fa a capire che una sagra è fasulla? Perché non rispettano le finalità proprie di una sagra, che sono le finalità di promuovere un territorio dal punto di vista storico, dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista ambientale, oppure dal punto di vista anche della promozione dei prodotti di quel territorio. Per cui se la finalità... non rientrano all'interno di questo range, evidentemente che ha una finalità esclusivamente di natura commerciale, sfruttando i vantaggi di natura fiscale collegato a quelli che sono le sagre, che hanno evidentemente non l'obbligo di certificazione dei loro corrispettivi, cioè lo scontrino non c'è, esatto, e soprattutto poi pagano una tassazione forfettaria rapportata ai fatturati nella misura del 3%, quando sappiamo che sulle attività di somministrazione, per esempio, pesa un'IVA del 9% e pesano poi le imposte dirette, di cui Radio 24 certamente è assolutamente informata. Cioè... Per cui qui c'è un danno erariale che noi abbiamo quantificato, evidentemente sono dati di parte, ma siamo a disposizione per verificarli, pari ad oltre 700 milioni di euro. Secondo aspetto, c'è un aspetto di concorrenza sleale, insomma, che ovviamente siamo rappresentanti di categoria, ma dietro questi fenomeni ovviamente c'è una concorrenza sleale che stressa l'aspetto commerciale, creando danni ai nostri operatori. C'è il rischio di dequalificazione, perché a differenza di quello che succede in alcuni territori virtuosi, come per esempio la regione Lombardia, che è stata l'unica regione con la Toscana ad aver messo un regolamento che ne prevede la calendarizzazione con la programmazione entro il 30 novembre dell'anno precedente, il rispetto di quelli che sono i criteri di tipicità a cui facevo riferimento, il rispetto della normativa in campo igienico-sanitario, fiscale, sistemi della sicurezza, con dotazioni minime obbligatorie in termini di servizi igienici, parcheggi, l'impatto acustico, la raccolta differenziata, gli orari di apertura, eccetera. Se non diamo regole minime, come ha ben fatto la Regione Lombardia, seguita dalla Toscana, si rischia un'anarchia che fa danno al consumatore, fa danno all'erario, fa danno anche alle nostre attività. E per quello che ogni anno, anche abbastanza ripetutamente, torniamo su questi argomenti, perché nonostante quelle che sono le nostre posizioni di critica, di allarme, ogni anno si ripete la stessa cosa con i dati a cui lei ha fatto riferimento nella sua introduzione. Mi scusi, però allora, fermo restando che nelle sagre uno va per mangiare anche a poco prezzo, mi scrivono gli ascoltatori con quel sistema, per carità, ma come si fa a distinguere? Io ho capito benissimo l'accusa che voi fate di concorrenza sleale, oltre che tra l'altro sul fronte fiscale in primis, ma non solo, però come si fa a distinguere una sagra fasulla da una sagra che invece promuove un territorio e un prodotto di solito del territorio? Cioè, come si fa a capire quando una sagra altro non è che una concorrenza sleale? In base a quello che offre? In base, cioè, se non offre solo il prodotto per cui la sagra esiste, ma dà un'offerta commerciale che darebbe qualunque bar, qualunque ristorante vostro associato? Allora, i sensori possono essere diversi, per cui una sagra del pesce in Val d'Aosta, oppure una sagra che ripromuove la Bottarga in montagna o cose analoghe, dimostra evidentemente che l'aspetto di tipicità non esiste. Il secondo è l'aspetto di ripetitività di queste sagre. Insomma, ogni comune italiano organizza 5,2 sagre ogni anno, per cui cosa significa? Che evidentemente c'è un elemento di abuso di questo strumento, e poi c'è anche l'aspetto carattere fiscale, perché evidentemente le risorse incassate tramite le sagre devono essere destinate a quelle che sono le spese a favore del territorio per la quale vengono promosse. Allora ci vorrebbe anche un minimo di controllo sulla destinazione di queste risorse, che è un altro aspetto che non ho citato nella mia premessa, ma che è altrettanto importante, perché altrimenti ovviamente questi corrispettivi rientrano nelle casse degli organizzatori senza nessun controllo su quelle che sono le destinazioni. Per cui se io faccio una saga per la promozione del Cotecchino, vorrei vedere poi a posteriori che attività a favore del Cotecchino sia stata fatta in quel territorio. Sì, questa, e non siano state questa invece... ragione. Nel senso che se la saga riceve finanziamenti e comunque viene fatta per promuovere un prodotto, è giusto anche avere un controllo. Mi scusi, ma secondo lei perché Stoppani, ma perché i comuni italiani fanno, cioè 5,5 sagra comune, mi sembra una cifra enorme, perché ne fanno così tante? Voglio dire, se da un punto di vista fiscale nessuno ci guadagna, se da un punto di vista del mondo del commercio voi siete anche arrabbiati perché c'è una proliferazione di sagre ingiustificate, perché i comuni italiani si impegnano così tanto nelle sagre? Beh, ci sono molti aspetti politici, insomma, perché dietro la promozione di queste sagre evidentemente c'è anche una promozione di carattere politico a favore delle amministrazioni che le organizzano, con anche un ritorno in termini economici evidentemente a favore degli organizzatori, che possono poi destinarli in certe direzioni piuttosto che in altre. E poi comunque sono sagre che vivacizzano e che alimentano i territori. È chiaro che va regolamentata per evitare appunto un abuso di queste attività che poi portano danni anche ai territori, insomma, perché una cosa è una sagra ben fatta, poi deve passare il principio che noi non siamo contro le sagre così in linea di principio, siamo contrari alle sagre fasulle che non rispettano quei requisiti di identità, di tipicità per la quale sono state a suo tempo istituite, per le quali sono state costituite le proloco, che hanno la finalità evidentemente di promuovere i territori nella giusta direzione senza gli abusi di cui oggi purtroppo siamo. Devo dire che mi stanno scrivendo molti commercianti che le danno ragione. Allora, 5 fatture su una vengono intestate alla proloco e via così. E poi l'incasso delle saghe viene dichiarata come donazione con tanto di deduzione. Insomma, allora io dico una cosa: teniamoci tutte le saghe che sono utili a promuovere territorio e i prodotti, perché nascono per questo motivo principalmente. Però non facciamo concorrenza sleale, e quindi se c'è un obiettivo di promozione andiamo a fare un feedback, un controllo, scusatemi l'inglesismo, un controllo su quello che è poi il ricavato, come è stato utilizzato, anche perché i vantaggi fiscali sono oggettivamente molto alti e i comuni non li usino per creare consenso politico interno, va bene così, perché tanto gira e rigira, quello è il motivo, no? Il comune investe, e non solo nel sud come mi scrive qualcuno, lì abbiamo criticato la distribuzione delle risorse a pioggia per le sagre anche più piccole invece che indirizzarli per strumenti, penso alla Sicilia ma non solo, più produttivi e più virtuosi. Però in generale hanno ragione i commercianti, qualcuno sorride, però attenzione, perché se tu operi in una realtà nemmeno tanto grande e ti vedi portare via parecchio lavoro da un insieme di manifestazioni che non hanno nulla di promozione di un prodotto del territorio ma offrono tutto, a casa mia anche questa si chiama concorrenza sleale. Grazie al presidente della FIP Lino Stoppani. Andiamo sul traffico. E poi l'ultimo tema, i dati brutti. Uno può dire maggio non fa primavera, ho capito, però dopo il dato di aprile si sperava in un consolidarsi, seppure non entusiasmante, dei dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, e invece siamo tornati a marzo, nel senso che i dati sia sulla disoccupazione e in particolar modo quella giovanile che sull'occupazione sono andati a passo di gambero. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Pour me a taste of something good. Sì, senza giri di parole, insomma, la disoccupazione, se resta stabile nell'Europa 19, invece cresce in Italia, non tantissimo il dato complessivo dall'11,2 all'11,3, ma interrompe una serie di leggero calo e resta la terza più elevata dopo quella greca e spagnola. La cosa più preoccupante riguarda la disoccupazione giovanile, perché è vero che è rimasta stabile in tutta l'area euro al 18,9%, però in Italia c'è stato l'aumento della disoccupazione giovanile più alto, dal 35,2% al 37%, e siamo anche qui terzi. Ancora, per quello che riguarda gli occupati, cioè tutti quelli che lavorano facendo 100, chi potrebbe lavorare, non i disoccupati che sono quelli che non lavorano sulla base di quelli che stanno cercando un lavoro, anche gli occupati vanno male. A maggio sono calati di 51.000 unità dopo 8 mesi, insomma, che non, dove non si registravano cali. In crescita over 50 e tempo determinato, resta un numero di occupati più alto rispetto a un anno fa di 141.000 unità, ma si è tornati indietro rispetto al dato di aprile, dove si erano registrati 94.000 occupati in più. Sostanzialmente, ci dice l'Istat, si torna al livello di marzo, leggerissimamente superiore al livello di marzo. Sentiamo Silvia Iorgia, che ha illustrato questi dati al microfono dell'Istat, che ha illustrato questi dati al microfono della nostra Anna Marino. Non interpreterei questo dato come un cambio di rotta, in quanto ad esempio per quanto riguarda l'occupazione osserviamo un calo nell'ultimo mese. Questo calo viene dopo una crescita consistente nel mese precedente, avevamo osservato più 69.000 occupati ad aprile rispetto al mese di marzo, e quindi con il calo registrato adesso nel mese di maggio ci manteniamo su un livello che comunque è lievemente superiore rispetto a quello di marzo, del mese di marzo. Quindi la ragione non è ancora possibile stabilirla, però si registra comunque un calo in alcune categorie. Sì, un calo che diciamo nell'ultimo mese è concentrato sugli uomini, in particolare sulle classi di età, diciamo, dei giovani adulti, quindi dei 15-49 anni, mentre come già abbiamo osservato da parecchi mesi per quanto riguarda gli over 50 abbiamo un segno positivo, e in particolare diciamo nell'ultimo mese il calo si concentra sui lavoratori indipendenti, e anche qui diciamo nulla di nuovo, e sui dipendenti a tempo indeterminato, mentre invece abbiamo un segno positivo per quanto riguarda i dipendenti a termine. Punto critico sempre i giovani. Sì, i giovani, anche nel caso dei giovani il tasso di disoccupazione torna a crescere e si colloca al 37%, diciamo sia per la disoccupazione giovanile sia per quella totale, quindi per l'intera popolazione, siamo sui livelli comparabili a quelli che avevamo a fine 2012, quindi dopo i livelli massimi che abbiamo raggiunto a fine 2014, per quanto riguarda la disoccupazione totale eravamo intorno al 13%, e invece inizio 2014 per la disoccupazione giovanile eravamo arrivati intorno al 40%, ora siamo su livelli più bassi comparabili a quelli che avevamo intorno alla fine del 2012. Professor Carlo Della Ringa, noto esperto di numeri ed economista alla Cattolica di Milano, numeri sul mercato del lavoro, deputato del PD, fu sottosegretario al lavoro nel governo Letta. La usiamo sempre come, diciamo, confronto, anche perché appunto lei fa parte del governo. Io ho trovato abbastanza così, un po' estemporanee le dichiarazioni del ministro Poletti, che dice vabbè Dopo il forte aumento registrato ad aprile, le diminuzioni degli occupati registrate a maggio non muta le tendenze in medio e lungo termine. Mi sembra sempre, vorrei gettare acqua sul fuoco che non so quanto sia utile. Mi dia la sua versione invece della Ringa, perché la riconosco un'onestà intellettuale prova di bomba. Il dato non è bello, dai, cioè ad aprile c'eravamo illusi che con una crescita del PIL un po' più alta, l'export che continua ad andare bene, ci fosse anche una ricaduta significativa che andava a consolidarsi su occupati e di segno opposto sui disoccupati. Sì, innanzitutto saluto tutti gli ascoltatori. Si pensava che si fosse avviato un circolo virtuoso tra un PIL che cresceva più del previsto e una vera esplosione del livello di occupazione, una riduzione della disoccupazione giovanile, che quindi si fosse avviato quel circuito virtuoso per cui più occupazione, più redditi per le famiglie e più domanda di beni di consumo e più produzione e più crescita. Invece no, cioè noi abbiamo avuto una prima parte dell'anno molto positiva, qualcuno dice anche per un recupero di scorte che erano state ridotte parecchio nei trimestri precedenti, e questo aumento di attività ha portato con sé un aumento di occupazione consistente. Però si sa già che questa, diciamo così, buona tenuta del PIL non sarà così facile tenerla fino alla fine dell'anno e anche per l'anno prossimo. Quindi noi abbiamo un'occupazione che ha reagito molto bene a questa fase positiva, ma poi anche l'occupazione, come alcuni indicatori sull'attività economica, rientra in un trend normale, che cioè di crescita, diciamo, discreta, ma non quella esplosiva che si poteva pensare. Quindi siamo ritornati ai nostri dati strutturali, che sono di una disoccupazione che con qualche punta al ribasso un pochettino diminuisce, l'occupazione un po' aumenta, ma diciamo così sbalzi verso l'alto non ci sono. Poi c'è un dato che è stato detto e che è ancora una volta elemento di qualche preoccupazione, e cioè che le imprese sono tornate ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato. Non si è esaurita, infatti molti, diciamo, mi chiedono, ma c'è un effetto fine dei voucher in questo dato? Io però non riesco a capirlo, ammesso che vi sia. Dunque, sì, c'è un effetto nel senso che c'è stato un aumento di quei contratti che sono più simili ai voucher. Ok, va bene, ma un effetto è... a somma zero, cioè non è per questo certo. Aumentano i disoccupati. Certo, i voucher ci sono ancora, però chiaramente la loro dinamica è molto più lenta, perché le imprese stanno utilizzando solo quelli che avevano in pancia, e adesso probabilmente ci sarà un po' di ripresa, ma poi le nuove norme riducono molto la possibilità di utilizzo di voucher, per cui molte imprese si sono buttate quegli altri contratti che assomigliano ai voucher, come il lavoro a chiamata, quindi c'è stato un po' di sostituzione, ma non c'è un effetto macroeconomico rilevante. L'effetto macroeconomico rilevante è quello di una fiammata di ripresa economica consistente, fiammata dell'occupazione. Adesso non è che siamo tornati indietro, però siamo tornati a una ripresa piuttosto lenta, dove naturalmente le imprese, finiti gli sgravi contributivi per lavoro permanente, cominciano a sostituirlo con lavoro a tempo determinato, come era prevedibile. Cioè una parte di quello che ha acquisito rimane, quindi un effetto permanente positivo c'è. Sì, si può pensare che misure temporanee possono produrre effetti permanenti, insomma. La decontribuzione era temporanea. Ecco, mi scusi, della Ringa, ma questo cosa vuol dire? Cioè lei che cosa si aspetta per i prossimi mesi? Nel senso che abbiamo capito che c'è un saldo ancora positivo sull'anno prima, lo dicevo anch'io, sono 141.000 gli occupati in più rispetto al maggio del 2016. Però, insomma, il governo dice no, nel medio termine tutto sta migliorando. Lei ne è convinto? Beh, se continueremo a mantenere un tasso di crescita attorno all'1%, perché questo 1,3% pare che sia, insomma, temporaneo, non sia definitivo, e quindi si tornerà, tutte le previsioni dicono, nel 2018 crisi, soprattutto, sì, ad andare sull'1%, è probabile che quell'1% comporti un aumento dell'occupazione su base annua dello 0,5 e dello 0,6, come è il dato di oggi, base annua è 0,6, e che la parte rimanente 0,4 0,5 sia aumento di produttività, e si comincia già a osservare, perché gli effetti di ristrutturazione dell'apparato produttivo, soprattutto industriale, cominciano a produrre effetti, quindi comincerà per fortuna aumentare la produttività, ma questo vuol dire che di mano d'opera le imprese ne assumeranno non in grande quantità, quindi ci sarà degli aumenti diciamo così di ordini modesti quest'anno e l'anno prossimo. Come ordini modesti saranno quelli di riduzione della disoccupazione. Grazie, grazie anche al professor Carlo Della Ringa. Devo dare un'ultima notizia appena battuta dalle agenzie, anzi non bella, è il tema con cui abbiamo aperto il programma. Secondo fonti a Bruxelles, Francia e Spagna sono contrarie all'idea di permettere lo sbarco di migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale, nei loro porti, insomma. E in questo, diciamo, già Adrian Ceretelli ci aveva fatto capire che il vertice di Tallinn finirà male per l'Italia, male nel senso con un nulla di fatto. L'altra notizia invece riguarda le immatricolazioni auto, crescono in Italia anche a giugno più 12,9%, e quindi dall'inizio anno sono più 8,9% le immatricolazioni auto. Ne parleremo anche domani. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, libera la voglia di fare.